l'altra Europa. L'Italia, l'Europa, vista la radio, questa è l'altra Europa, buon sabato da Federico Taddia, come ogni settimana qui per raccontarvi la storia e le storie di questa Europa, un programma in collaborazione con il network Euronet Plus, network europeo, tante radio, tante lingue diverse per raccontare un percorso comune, ognuno portando il proprio contributo, il proprio punto di vista. Le coordinate per trovarci anche virtualmente, euronetplus.eu è il portale di Euronet Plus che vi consiglio comunque di frequentare settimanalmente, tanti dossier, tante informazioni, tante suggestioni dall'Europa. E poi le nostre piazze virtuali, Facebook e Twitter, lì potete trovare tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare, piazze virtuali che aggiorniamo minuto per minuto, le coordinate Euronet Plus R24 oppure il mio account personale @ Federico Taddia. Ogni settimana un viaggio, oggi partiamo da alcune parole che sono un po' le colonne portanti del nostro programma: informazione, opportunità, giovani, Europa. Informazioni e opportunità per i giovani in Europa, questo è il sottotitolo del portale europeo per i giovani, una vetrina, un punto di partenza, un catalogo, un catalizzatore di opportunità, di informazioni, di suggestioni, di dritte, di coordinate sulla nostra Europa. Ve lo vogliamo presentare, vogliamo ripartire proprio da qui, appunto ribadendo ancora una volta che l'Europa è di più, l'Europa è soprattutto opportunità, e lo facciamo con Ramon Maggi, presidente di Eurodesk Italia. Ciao Ramon, benvenuto all'Altra Europa. Ciao Federico e buon sabato a tutti. Che cos'è questo portale europeo dei giovani? La parola portale di solito sembra una scatola vuota, invece mi sembra un portale colorato, con mille sfumature e davvero mille stimoli. Sì, è diciamo la porta d'entrata dell'informazione sull'Unione Europea dedicata ai giovani, sta nel sito ufficiale dell'Unione Europea ed è diciamo localizzato per tutti i 28 paesi dell'Unione Europea. I vari Eurodesk che sono presenti nei vari paesi hanno la responsabilità e il compito di fornire le informazioni che sono poi pubblicate sul sito in un layout unico uguale che invece è responsabilità diretta della Commissione. 33 paesi, 27 lingue, 8 temi principali, questi sono un po' così i numeri del portale, come tu ci hai già detto, localizzato, nel senso che comunque ogni nazione poi ha il proprio spazio. Eurodesk Italia, sicuro della parte italiana di questo portale. Come vengono raccolte le informazioni? Cosa comunicate? Ma come hai detto tu, ci sono gli 8 canali principali che coprono di fatto le politiche per i giovani di sviluppo europeo, quindi diciamo all'interno di ciascun canale i paesi poi mettono in evidenza delle notizie che sono più importanti o più legate al momento particolare del paese, quindi sono diciamo i vari Eurodesk che selezionano le informazioni che appaiono e poi vengono caricate direttamente. E tante volte abbiamo detto che uno dei problemi dell'Europa è la comunicazione, il farsi conoscere, il raccontarsi. È complicato oggi parlare di Europa. Qual è la strategia che utilizzate voi per far arrivare ai destinatari, in questo caso principalmente ai giovani, le notizie? Ma è una bella domanda, rispondere molto velocemente non è facile, diciamo che noi in Italia, come anche altri colleghi di altri paesi, in realtà per comunicare Europa ai giovani cerchiamo di andare dove i giovani ci sono, quindi principalmente nella scuola. Il portale, come tutte poi le varie anche altre attività che abbiamo collegate di comunicazione via internet, servono più che altro, come dire, a far nascere curiosità nei giovani che si imbattono navigando su internet su questo tipo di informazioni, ma effettivamente per poi poterle utilizzare, per avere effettivamente l'opportunità anche di accedere ai finanziamenti europei, quello che poi conta è il contatto a livello locale attraverso le reti territoriali. E ancora la mobilità per studio, per lavoro, una delle prime, appunto, dei primi ambiti di attrazione per chi viene a cercare informazioni? Assolutamente sì, anche perché stiamo lavorando in ambito europeo e con i programmi dell'Unione Europea, l'Unione Europea si può occupare dei giovani solo se sono in mobilità, non può entrare, diciamo, nelle politiche nazionali che riguardano progetti nazionali. Istruzione, formazione, creatività, cultura, salute e benessere sono questi i temi principali che trattate. Si fa abbastanza, Ramon? Cioè, nel senso che quando tu guardi il tuo portale e dici sì, qui c'è tutto, qui c'è tanto, qui potrebbe esserci di più? Allora, ci può essere di più, tanto è vero che c'è una limitazione proprio per il numero di paesi presenti, per il numero di informazioni che si possono caricare, come si potrà vedere chi è interessato sul portale europeo, il numero di notizie non è poi così molto ampio, tanto è vero che noi in Italia abbiamo il portale dei giovani, che non è altro che la espansione nazionale delle informazioni e dei concetti che ci sono nel portale europeo, che ha molte molte più informazioni, perché chiaramente quello è solamente italiano, fatto per gli italiani. Per cui sì, diciamo, teoricamente si potrebbe comunicare anche di più. Quello che posso dire è che con la nuova commissione, quindi probabilmente a partire dal 2015, si sta già ripensando un po' anche allo stile e alla modalità di comunicazione del portale europeo per i giovani, per dare magari più informazioni precise, puntuali, piuttosto che tante informazioni non troppo approfondite. Ci vuoi dare i siti internet, così aggiorniamo al volo anche il nostro Facebook e il nostro Twitter, dici? Allora, quello europeo è europa.eu, poi /youth, poi da lì si può selezionare la lingua del paese. Perfetto. Mentre in Italia è portaledeigiovani.it. Un grazie davvero a Ramon Maggi, presidente di Eurodesk Italia. Ciao Ramon, buon lavoro. Grazie a voi e buon lavoro. Adesso un Europostit e ci fermiamo per le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua in diretta con l'altra Europa. Europostit. Anno all'estero alle superiori? Ci sono 1800 possibilità. Volete studiare all'estero? Frequentate le scuole superiori? Anche quest'anno riaprono le iscrizioni alle selezioni per le borse di studio del nuovo bando dell'Associazione Intercultura per l'anno scolastico 2015-2016. Ci sono ben 1800 posti disponibili per 60 destinazioni in tutto il mondo, per una nuova esperienza di studio, ma anche di vita. Chi è interessato può frequentare il terzo o quarto anno di scuola superiore all'estero. Si può rimanere in Europa oppure anche viaggiare verso l'Asia, l'America del Nord e del Sud, fino al Sudafrica e alla Cina. Per iscriversi è sufficiente frequentare una scuola media superiore ed essere nati tra il 1 luglio 1997 e il 31 agosto 2000. Per saperne di più sulle destinazioni e sulle modalità di iscrizione, andate sul sito di Intercultura, intercultura.it. L'altra Europa. Six months after the detection of the deadly Ebola virus outbreak in West Africa, some 200 experts from the World Health Organization, WHO, have come together in Geneva. They will attempt to establish a global strategy to halt the transmission of Ebola, care for the suffering, protect the populations at risk, and contain it. No cure or specific standardized treatment had been found before this outbreak. Vaccines are in the experimental stage, raising ethical questions of how soon they might... 1900 vittime, 3500 persone contagiate in Guinea, Sierra Leone, Liberia. Stiamo parlando dell'Ebola, questo virus che si sta dilagando in Africa. C'è il timore che si possa espandere in tutto il mondo. Quello che state ascoltando è un reportage di Euronews che racconta dell'incontro di questa settimana dell'OMS, in cui si è deciso di autorizzare le terapie sperimentali. Anche l'Europa è in prima linea per portare aiuti in Africa e anche per cercare di evitare che il virus possa uscire però dal continente africano. Di tutto ciò ne parliamo con Sergio Brusine, capo della sezione di intelligence epidemica del Centro Europeo di Prevenzione e Controllo delle Malattie di Stoccolma. Ciao Sergio, benvenuto all'altra Europa. Buongiorno, buongiorno a tutti. Abbiamo già conosciuto le CDC, appunto questa agenzia che si trova a Stoccolma. Ci vuoi ricordare tu di cosa si tratta? Certamente. Le CDC è il Centro Europeo di Controllo e Prevenzione delle Malattie, è un centro della Commissione Europea. Noi ci interessiamo soprattutto di malattie infettive ed in particolare la, l'identificazione precoce di rischi epidemici, la valutazione del rischio per l'Europa, della possibilità di introduzione, della possibilità di trasmissione all'interno dell'Europa e poi della comunicazione ai governi e alla popolazione dei possibili rischi per l'Europa. Certo, quindi un lavoro dove si cerca di raccogliere dati, coordinare il lavoro delle singole nazioni e poi trasmettere alle singole nazioni quella che è la fotografia della situazione. Due tipi di sorveglianza, una routinaria, l'abbiamo conosciuta anche quando abbiamo parlato di influenza, appunto raccogliete i dati dei bollettini che arrivano da ospedali, ambulatori, a tutto il mondo, e poi una seconda parte che è forse quella di cui ti curi tu, di sorveglianza attiva, fate un lavoro di indagine per capire, per prevenire. Certamente, noi dobbiamo essere in grado di percepire segnali molto precoci della possibilità di epidemie. Abbiamo una serie di metodologie, alcune confidenziali attraverso contatti con gli altri istituti in giro per il mondo e con ospedali, università e così via. E poi attraverso internet abbiamo sviluppato tutta una serie di algoritmi che ci permettono di identificare le notizie che riguardano le malattie infettive estremamente precocemente. Per fare un esempio, con Ebola noi siamo riusciti ad avere un segnale dalla Guinea poche settimane dopo che l'epidemia è iniziata e quando l'epidemia ancora non era conosciuta come Ebola. Noi l'abbiamo identificata come malattia sconosciuta e ci hanno messo poi un paio di settimane prima di riuscire a capire che fosse Ebola. E tutto questo viene fatto attraverso analisi delle notizie su internet, possibilità di rumors che noi abbiamo la possibilità di ottenere attraverso i nostri partner in tutto il mondo e attraverso poi un'analisi dei dati attraverso la nostra esperienza rispetto a quello che è successo in passato. Ecco, Sergio, tornando appunto a Ebola, ci hai appena detto che ve ne siete comunque accorti prima dei giornali, prima che la notizia uscisse, prima che si capisse che appunto era Ebola. E poi cosa è successo e cosa state facendo in questo momento? Siete preoccupati? Allora, quello che è successo è un po' sui giornali di tutto il mondo, no? In loco non sono riusciti a fermare la trasmissione, questa trasmissione della malattia poi si è espansa nei paesi limitrofi, in particolare Liberia e Sierra Leone, adesso c'è stata l'introduzione in Nigeria, aspettiamo di sapere esattamente se ci sarà trasmissione anche in Senegal. E noi continuiamo a fare questo lavoro di sorveglianza e di intelligence, ma l'altra parte poi del nostro istituto sta lavorando alla valutazione del rischio e a quali sono le azioni che possiamo mettere in atto per impedire che questo che Ebola poi entri in Europa, perché questo è il nostro principale mandato. Quello che noi stiamo facendo è, insieme alla Commissione e agli Stati membri, rivedendo tutti i piani di preparazione. Bisogna che tutti i paesi siano pronti ad intervenire qualora alle frontiere o agli ospedali si presenti qualcuno con Ebola, essere sicuri che tutte le procedure di protezione, in particolare poi le procedure negli ospedali e nei pronti soccorsi, siano pronte a una tale eventualità, e allo stesso tempo cerchiamo di intervenire soprattutto attraverso la Commissione e poi l'Agenzia ECO dell'Unione Europea nei paesi colpiti per coordinarci assieme al centro CDC di Atlanta, all'OMS e ad altre agenzie internazionali per cercare di intervenire in loco, perché il modo migliore per difendere l'Europa dalla possibilità di introduzione è fermare la malattia nei paesi originari. Un monitoraggio continuo e costante. Sergio, però, pensate che si possa davvero impedire l'arrivo del virus in Europa o state già guardando oltre, cioè a cosa fare? Cioè si dà forse, c'è qualcuno che dà già per scontato che comunque non si possa impedire che il virus sbarchi dalle nostre parti? Ma la possibilità che il virus sbarchi non è molto alta, ma sicuramente c'è, e più si espande in Africa più questa probabilità diventa alta. È per quello che noi stiamo lavorando moltissimo assieme ai paesi membri a mettere insieme dei piani d'emergenza, no? Abbiamo avuto già sperimentazioni, perché i pazienti con Ebola sono arrivati in Spagna, sono arrivati nel Regno Unito, sono arrivati in Germania, e i nostri piani preliminari hanno funzionato molto bene. Il fatto che ci siano di tanto in tanto questi pazienti che arrivano e sono sospettati di avere l'Ebola ci permette di testare i nostri piani, e fino adesso hanno funzionato piuttosto bene. Non c'è stato in nessun paese europeo caso sospetto che non sia stato trattato secondo i protocolli che abbiamo messo in piedi insieme alla Commissione europea. Quindi sicuramente succederà che qualcuno arriva in Europa, ma siamo preparati. Sergio, dalla nascita dell'agenzia è forse l'allarme più grave, l'emergenza più importante che vi trovate a dover combattere, ad affrontare? È più o meno dello stesso livello della famosa influenza aviaria. Sì. Del swine fever. Sì, del, sì, sì. Direi che ci sono delle grosse differenze nella possibilità di introduzione in Europa. L'influenza era arrivata ed era ormai all'interno dell'Europa e bisognava impedire la trasmissione all'interno dell'Europa. Qui siamo più in una situazione in cui dobbiamo lavorare per impedire l'introduzione, o qualora l'introduzione ci sia, di fermarla il più presto possibile. Però abbiamo attivato tutte le nostre procedure d'emergenza, abbiamo dei team che sono stati tolti da altri lavori per lavorare specificamente su Ebola, e quasi metà delle persone adesso del nostro istituto lavorano attivamente su Ebola, quindi per noi è un grosso impegno, certamente. E cdc.europa.eu, questo è il sito per conoscere le attività del Centro Europeo di Prevenzione e Controllo delle Malattie. Sergio, grazie davvero per averci spiegato quello che sta accadendo, in bocca al lupo a te e a tutto il tuo team, insomma, perché sappiamo che il vostro lavoro è preziosissimo per la nostra quotidianità. Buon lavoro. Molte grazie e buongiorno. Europostit. European Cooperation Day. Il 21 settembre 2014 parte la terza edizione dello European Cooperation Day, dedicato al tema della cooperazione territoriale, con una serie di eventi in tutta Europa. Si tratta di celebrare tutte quelle azioni, quei progetti e quei piani di sviluppo che possono svolgersi in collaborazione tra più territori, che possono condividere problemi e soluzioni, promuovendo lo scambio di buone pratiche, la stabilità e lo sviluppo di politiche economiche, sociali ed ambientali. L'evento Lancio per l'Italia si svolgerà presso Sala Marco Biagi di Regione Lombardia, a Milano, il 16 settembre e vedrà la partecipazione di diversi rappresentanti della Commissione europea e del mondo politico italiano. Oltre alla presentazione degli eventi europei di celebrazione della giornata, sarà premiato il video vincitore del concorso dedicato all'importanza di trovare soluzioni condivise tra territori, Border Issues, Border Solutions. Per partecipare all'evento di Milano bisogna iscriversi, c'è tempo fino al 12 settembre. Trovate informazioni sul Cooperation Day sul sito ufficiale ecday.eu e i moduli per partecipare su forms.interact-eu.net. Stand every boy and girl. favorire il dialogo tra amministratori pubblici e innovatori locali con l'obiettivo di condividere modelli e soluzioni vincenti per il rilancio dell'occupazione giovanile e, allo stesso tempo, dare vita a nuove forme di sviluppo condiviso nei contesti urbani. È questo lo scopo di una giornata di studio e di confronto che si terrà a Torino il venerdì 12 settembre. L'incontro, chiamato Le città e l'occupazione giovanili, le soluzioni delle città Urbact e il ruolo degli innovatori per combattere la disoccupazione nella città. Questo è il programma della giornata inserita anche nel contesto del semestre europeo, e di tutto ciò ne parliamo con uno dei referenti. Diamo il benvenuto a Pier Ciro Galeone, segretario generale di Cittalia. Ciao Pier Ciro, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a tutti, buongiorno all'Altra Europa. Cittalia, Fondazione Arci Ricerche, struttura dell'ANCI dedicata a cosa? Dunque, è dedicata soprattutto allo studio e all'azione sulle politiche urbane. Cioè, quello che noi facciamo è essenzialmente quello di aiutare le città a sviluppare migliori servizi, ad avere uno sviluppo ordinato e anche a cercare di creare occupazione, impresa e lavoro. Pier Ciro, ci fermiamo un minuto, la pubblicità, poi veniamo da te per capire cosa succederà a Torino e perché tutto ciò accadrà con un ampio respiro europeo. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa. @ Federico Taddia per seguirmi e seguirci anche via Facebook e via Twitter. Siamo collegati con Pier Ciro Galeone, segretario generale di Cittalia, per parlare di questo evento che ci sarà a Torino venerdì 12 settembre in collaborazione con Urbact, il programma europeo di learning e scambio per la promozione dello sviluppo urbano sostenibile. Pier Ciro, cosa accadrà a Torino? Dunque, a Torino noi illustreremo i risultati di un'importante azione che fa Urbact, che ricordo coinvolge 500 città europee ormai da molti anni, 20 città italiane, a 7.000 persone che partecipano. E Urbact, l'idea di fondo di Urbact è che il futuro dell'Europa dipende in parte significativa, forse decisiva, dal futuro delle sue città, cioè che le città sono il luogo dove si concentrano idee, risorse, opportunità e talenti. E il tema questa volta delle varie azioni di Urbact sarà proprio l'occupazione giovanile, un tema centrale per l'Europa. Certo. E anche per l'Italia. E quello che noi faremo è metteremo, in qualche modo illustreremo, le azioni svolte da alcune città italiane della rete Urbact che hanno condiviso con le città europee problemi e soluzioni, soprattutto nel campo delle start-up, cioè dell'occupazione giovanile attraverso la nascita di nuove imprese ideate proprio dai giovani. Come sempre, insomma, che è un po' un'altra potenzialità dell'Europa, che è quello del mettere in circolo, mettere in connessione realtà positive, non perché vengano replicate, ma perché diventino ispirazione per startup simili, per esempio, no? Questa è la creatività che si concretizza, che si realizza e che può diventare trampolino per altre esperienze. Ci puoi fare un paio di esempi delle startup che verranno narrate? Sì, guarda, io lo faccio prendendo due startup, le scelgo perché, come dire, partono da due cose vecchie per fare innovazione. E le due cose vecchie sono la bicicletta e il vino. La prima startup che volevo raccontarvi si chiama Pony Zero Emissioni, sì. Pony Zero, ed è un servizio di pony in bicicletta. Uh-huh. Ed è un'idea che è stata ripresa da due ragazzi, prendendo idee già realizzate a Londra, a New York, a Tokyo. Cioè appunto un sistema di pony efficiente, a volte anche più efficiente dei pony motorizzati, perché le biciclette hanno capacità anche a volte di essere più veloci e sicure in un'area urbana. Certo. Che sono partiti, hanno naturalmente fra i primi clienti i gruppi di acquisto sostenibile, naturalmente chi acquista a chilometri zero rispetto all'ambiente, la biodiversità eccetera eccetera, non ha piacere che poi le merci si trasportino producendo inquinamento. E la cosa interessante è che l'idea è partita, funziona e adesso stanno anche cercando di estendersi oltre Torino attraverso anche un accordo con i servizi ferroviari, cioè bicicletta più treno. Certo. Quindi trasporto di merci ed emissione zero. la bicicletta è una cosa vecchia, ma questa è stata rinnovata. Il vino, il vino, abbiamo un'altra startup che si chiama Svinando, ed è un wine club online, ed ha la caratteristica, uno, di avere un approccio filiera corta, cioè direttamente produttore e il sito che li distribuisce, e poi una cosa caratteristica che è il flash sale, nel senso che non c'è un sterminato catalogo di vini con i doc eccetera eccetera, ma ogni tre giorni viene presentato un solo vino. Il sito si assume la responsabilità della sua qualità, un vino, quantità limitata, e lavorando così ormai hanno coinvolto 70 cantine e hanno 30.000 iscritti. Questa è l'Europa che riparte anche dalle città, creatività, innovazione, insomma sono queste le risposte alla crisi. torinosocialinnovation.it/innovalacittà, il sito per tutte le informazioni, e grazie davvero a Pier Ciro Galeone, buon lavoro, in bocca al lupo per il vostro evento il 12 settembre. Grazie a voi. Buon sabato. Arrivederci, ci vediamo a Torino. Certo. Europost-it. Scambio interculturale in Romania, vicino al castello di Dracula. Educazione e lavoro in Europa sono gli argomenti dello scambio che si svolgerà in Romania dal 10 al 18 novembre, dove potrete unirvi con 35 ragazzi provenienti da 6 differenti nazioni per discutere, ma anche per scambiarvi esperienze e scoprire la Romania con le sue mille sfaccettature, non solo quelle più sanguinose. Se siete interessati a questa esperienza, l'associazione Scambi Europei è alla ricerca di 4 partecipanti italiani tra i 18 e i 25 anni e un group leader. Se volete saperne di più o partecipare, andate su scambieuropei.info. E con questo trailer andiamo a Venezia, dove appunto c'è il Festival del Cinema che si concluderà oggi, e dove tra le tante rassegne, tra appunto i tanti ambiti, si teneva anche 28 volte Cinema, che è una sorta di giuria europea, il progetto promosso dal premio Lux del Parlamento Europeo con il network di Sale Europa Cinemas, il programma media e le giornate degli autori, con il sostegno di Cine Europa, 28 volte Cinema, 28 giovani dai 28 stati membri che hanno vissuto insieme per respirare cinema, respirare storie, assegnare anche il premio ovviamente dal sapore europeo. Con noi c'è Andrea Cleopatria, il giurato italiano, 26enne, appassionato di cinema, studia a Milano beni culturali e ha realizzato quest'anno il suo primo film. Ciao Andrea, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a tutti. Allora, ho raccontato sulla carta quello che è 28 volte Cinema, raccontaci tu invece dal vivo cosa avete vissuto in queste giornate veneziane. Certo, beh, direi innanzitutto che quello che hai detto tu riassume perfettamente quello che è stato questi giorni. La 28 volte Cinema è assolutamente un'opportunità gigantesca per chi, per esempio come me, sta muovendo primi passi all'interno di questo mondo. Iniziare poi da Venezia, che è senz'altro uno dei festival principali, è una cosa che consiglio anche per eventuali avvenimenti futuri, perché è un progetto giovane ed è un progetto che si sta sviluppando sempre di più e non dà semplicemente l'opportunità di guardare film, di essere qua nel mondo, ma appunto fai parte di una giuria e hai contatto diretto con i registi dei film, cioè, quindi c'è un approfondimento maggiore, ed è assolutamente un'esperienza importante che rifarei. Andrea, quanta Europa c'è stata in queste giornate nella vostra quotidianità? Direi che è stata solo Europa in qualche modo, quindi anche questa è un'ottima cosa. Per esempio io ho incontrato gente con cui poter parlare di cinema, con cui confrontarmi, e anche a livello culturale sono stati degli ottimi scambi con rappresentanti per esempio della Romania, con rappresentanti del Lussemburgo, della Germania, insomma mi sono trovato bene anche con loro, appunto respirare, cioè condividere un festival così con anche altre persone che lo vedono in maniera diversa, un po' da fuori se vogliamo, è stato un altro tipo di esperienza. Mm-hmm. Avete già concluso il vostro lavoro? Avete già dato i vostri voti? Sì, ieri c'è stata la premiazione, la giornata degli autori ha dato il premio come miglior firma Ritorno a L'Avana, sì. Tom Kvitka di Laurent Cantet, un regista abbastanza navigato, però comunque tutta la selezione era ben assortita, ci sono stati primi opere prime, opere, anche altri lavori, però il livello era alto ed è stato anche bello di discuterne nei vari meeting con anche il presidente della giuria, che era Diego Lerman, uh-huh. e con Karel Ok, che è insomma un grande Erasmus del cinema, e mi sembra che sia stata una bella esperienza. Grazie davvero Andrea per averla testimoniata qui all'Altra Europa, ma rimaniamo a Venezia, rimaniamo con un film che davvero ha raccontato e sta raccontando un'altra Europa. العام اللي فات انا كنت بسوريا قبل الحرب يعني شفت الحرب شفت اللي صار بسوريا بيجيك عناق لانه مندمر بجناس بتخاف الشيح الاصدقاء ما فيك تخلي العالم بالشارع يعني قدر الامكان بس بالنهايه لما يصيروا Io sto con La Sposa, 17 minuti di applauso per questo film che racconta una storia vera, o meglio, una storia vera che diventa film, uno strano intreccio, un'esperienza di vita, però con le telecamere che l'hanno ripresa minuto per minuto. C'è con noi uno dei registi che ha curato questo film, che già sta tanto facendo parlare di sé. Diamo il benvenuto a Gabriele Del Grande. Ciao Gabriele. Ciao, buongiorno. Beh, vi aspettavate tutta questa eco? Ma guarda, ancora dobbiamo ben renderci conto di quello che ci sta succedendo, non soltanto già essere qui a Venezia, i 17 minuti di standing ovation, le 100 ragazze vestite da sposa che si sono presentate sul tappeto rosso, facendo diventare white carpet, come l'abbiamo soprannominato, la commemorazione sul mare dopo il film per le vittime della Fortezza Europa, veramente è un momento fantastico. Un viaggio da Lampedusa alla Svezia, davvero un'altra Europa quella che voi avete raccontato, un'esperienza, perché è più di un progetto, è più di un film, è più di una sceneggiatura, è un pezzo di storia vera. Ci vuoi fare una breve sintesi di quello che avete vissuto? Ma sì, la storia vera del finto corteo nuziale che abbiamo organizzato per portare 5 persone scappate dalla guerra in Siria, arrivate via mare a Lampedusa, sulle barche appunto che viaggiano sulle rotte del contrabbando libico, e noi li abbiamo invitati a continuare il loro viaggio dall'Italia alla Svezia, sempre senza documenti. Abbiamo anche preso dei rischi, perché rischiamo un processo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ma abbiamo deciso di obbedire a leggi ben più antiche delle nostre leggi sull'immigrazione, che sono insomma le stesse leggi che, tanto per citare un esempio, nel 1943, quindi in piena Italia, diciamo, sotto il fascismo, in piena guerra, portarono una famiglia di ebrei di Verona a travestirsi anche loro da finti sposi per valicare i confini con la Svizzera e mettersi in salvo. Insomma, la storia ritorna, le guerre ritornano e arriva il momento di scegliere da che parte stare. Noi l'abbiamo fatto e abbiamo trovato un sostegno favoloso da parte del pubblico, che addirittura ci ha aiutato a produrre questo film, perché siamo il crowdfunding più riuscito della storia del cinema italiano, 100.000 euro raccolti online appunto per questa produzione indipendente che ci ha portato fin qua e che arriverà al cinema dal 9 ottobre. Io sto con lasposa.com, il sito per conoscere questo progetto. Vi consiglio davvero di studiarvelo, di leggervi quello che sta uscendo su questo bel progetto e di guardarvi anche il film, perché anche questa per noi è l'altra Europa. Grazie davvero Gabriele, complimenti a te, complimenti a tutte le persone che col loro piccolo pestettino hanno contribuito a realizzare questa bella storia. Grazie a voi. L'altra Europa. C'è qualcosa nell'acqua, e lui da anni ha scelto l'acqua come missione, l'acqua da difendere, l'acqua da raccontare, l'acqua da proteggere, l'acqua che diventa corrente, su cui scivolano storie, su cui scivolano storie di persone, su cui scivolano le storie dell'ambiente. L'abbiamo conosciuto per i suoi progetti passati, in primis il suo lunghissimo viaggio attraverso i fiumi europei, dal Tamigi appunto ha tagliato l'Europa seguendo le autostrade fluviali, e adesso è ancora lì, è lì con la sua acqua per difenderla fino in fondo. Diamo il benvenuto e il ben ritrovato a Giacomo De Stefano. Ciao Giacomo. Ciao Federico, grazie a tutti, buongiorno a tutti. Questo progetto che si chiama Volta Mallorca, progetto che è partito da qualche settimana, forse anzi si sta quasi concludendo, l'idea è quella di circumnavigare l'isola di Mallorca. Perché? Beh, l'idea è quella di dare una mano a quest'isola e soprattutto capire, prima, come sempre io viaggio per capire meglio, per ascoltare, per imparare, poi dopo lavoro con le persone che nell'isola e anche fuori dall'isola lo possono fare di più. Mallorca ha dei grandi problemi, ha delle grandi risorse, delle grandi bellezze, ma ha dei grandi problemi, che sono legati indissolubilmente le sue bellezze. Io sto circumnavigando l'isola con un vecchio yacht, che è una barca tipo un gozzo, di 5 metri di legno, senza motore, con la vela latina e a remi. Come dove l'hai trovato? Che è sempre bello anche il backstage delle tue imprese. La storia. Ma la storia è buffa. Io sto facendo questo viaggio con un giornalista di IB3, dell'isola di Mallorca e della Catalogna. Si chiama David Ramon Olivier e è il proprietario di questo yacht. L'anno scorso era disperato, non sapeva più come mantenere questo yacht, aveva vari problemi di lavoro, e un mio amico mi chiama, io volevo comprarglielo, e stavo per partire con il progetto che avevo già organizzato. A questo punto lui, quasi piangendo, mi ha detto: guarda, questo tuo progetto è il sogno della mia vita, anche perché lui da una vita si dedicava allo studio delle tradizioni marinare di Mallorca. Sì. E quindi da lì io ho bloccato già il fotografo Dragan Miletic dalla Serbia, era già venuto, quindi tutto era già pronto. Abbiamo bloccato il progetto, rimandato al 2014, e quindi siamo qua ora con questo yacht. Perfetto. Meraviglioso. VoltaMallorca.com è il sito per conoscere questa impresa in senso lato, perché non è un'impresa sportiva, non è un'impresa fisica, è un'impresa soprattutto ecologica, dove Mallorca, questa meta, credo che sia l'isola più frequentata dai turisti europei, al di là della difesa della singola isola, diventa anche metafora della difesa delle acque, dell'ambiente europeo. Ci stavi spiegando perché Mallorca? Mallorca ha questi grandissimi problemi che sono indissolubilmente legati alle sue risorse. La gente viene qua per l'acqua, per la bellezza, per il sole, per la sabbia. Circumnavigando l'isola abbiamo visto delle cose meravigliose, ma anche delle cose orrende, come Magaluf, Calviá, Cales de Mallorca qua vicino, dove l'unica cosa che veramente servirebbe sarebbe un mega tsunami, perché hanno costruito dei palazzi di 15 piani proprio sulle vecchie rocce, su queste bellissime grotte marine, e questo crea dei problemi enormi di gestione dell'isola, per esempio l'acqua potabile. Io adesso sono a Porto Colom, che è un vecchio borgo marinaio in un fiordo. E qui non hanno acqua potabile nel 2014. Perché non hanno acqua potabile? Perché lo sfruttamento dell'agricoltura intensiva nella parte di Sapovla e qua vicino ha creato una serie di ha depositato nelle falde acquifere una serie di sostanze che conosciamo bene, nitrati, pesticidi, eccetera. Quindi l'acqua non è possibile, non si può bere. Non solo, ma il pompaggio dell'acqua per irrigare i campi, qui piantano mais addirittura, il mais ha bisogno di 5 volte l'acqua che non il grano, per esempio. I romani chiamavano Maiorica perché era una capo formentor, frumento, perché qui cresceva il frumento molto bene. Hanno alterato completamente quelli che erano le naturali potenzialità di quest'isola, e quindi la natura ad un certo punto non può più dare quello di cui l'uomo ha bisogno. Certo, Giacomo, voglio capire, con la forza del vento, con le forze delle braccia a bordo di una antica imbarcazione in legno, cosa si può fare? Qual è come Don Quixote, i mulini a vela. Guarda, io questo, quello che io posso fare da solo è molto poco. Noi possiamo fare molto invece incontrando le persone e portando la visibilità su questi problemi. Ovviamente il tema non quello dell'acqua potabile, dei 400 milioni di bottiglie di plastica che vengono bruciati ogni anno, ogni inceneritore, ma il fatto che la visibilità che noi portiamo al problema, per esempio, delle barche, un altro piccolo problema è che qua stanno riempiendo l'isola di barche di plastica, che non sanno più come smaltire queste barche che consumano motori enormi. Le vecchie imbarcazioni tradizionali si perdono, i maestri d'ascia perdono la possibilità di lavorare. C'è tutto un mondo collegato al navigare, che è trasportare le idee, muoverle. E questo gesto di navigare a remi come i vichinghi, come i fenici, come per mille anni i pescatori hanno fatto qua, rappresenta un gesto di umiltà e di grande forza allo stesso tempo, perché noi andiamo a mani nude e affrontiamo il mare, che non è né amico né nemico di noi, come diceva Conrad, casomai è complice delle nostre irrequietudini, e cerchiamo di arrivare a incontrare le persone. Loro sentono il nostro odore di sudore, sanno che siamo puliti, by fair means, con maniere oneste. Questo crea una grande vicinanza con le persone, dà un moto di solidarietà a tutti che si sentono abbandonati, perché questa è un'isola dove c'è uno dei più alti tassi di corruzione al mondo. Ci sono 30 degli ultimi amministratori che sono in galera e molti altri che non ci sono andati per vari sotterfugi. Ok, Giacomo, grazie davvero come sempre per averci dato suggestioni, immagini, brividi, che anche questo è comunicare, anche questo è denunciare, anche questo è divulgare. Voltamaiorca.com è il sito per conoscere meglio in profondità ed entrare in contatto anche con te per scoprire quello che stai facendo. Ci ritroveremo sicuramente qui prossimamente all'Altra Europa. Grazie ancora e grazie. Buona Maiorca. Grazie mille Federico, un abbraccio. Ciao Giacomo. Ciao. Grazie a voi come sempre invece per essere stati in nostra compagnia, e un grazie a tutta la squadra dell'Altra Europa, Ina, Margherita Ina e Silvia Righini che con me hanno scritto la puntata, Roberto Scaltritti alla parte tecnica, Giorgio De Luca in assistenza. Fatevi vivi durante la settimana, ci trovate su Facebook, su Twitter oppure all'indirizzo l'altraeuropa@radio24.it. L'appuntamento è a sabato prossimo, ancora ciao da Federico Taddia. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.